Sura del Fico, capitolo 95 del Sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 8 ayat ed è scesa dopo la Sura 85 al Buruj. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e clementissimo, io, Allah, lo giuro sulla pianta del fico e su quella dell'ulivo, sul monte Sinai, e su questo territorio sicuro. Noi creammo l'uomo nella migliore delle strutture, poi lo riducemmo il più abietto degli abietti, tranne coloro che credono e praticano le opere buone, ai quali è riservato un premio senza fine. Chi dopo ciò ti accuserà di menzogna riguardo al giorno del giudizio? Non è forse Allah il più sapiente dei giudici?